Italo Cucci va alla Domenica Sportiva. Ecco, i giornalisti di successo sono quelli che sono chiamati talk show televisivi. Ecco, quindi questo è veramente la cartina di tornasole del fatto che lui sia un giornalista di grande successo. Italia in controluce. La seconda traccia di Italia in controluce parla di legalità. Anna Migliorati ha intervistato Flavio Tranquillo, che insieme a Mario Conte hanno appena pubblicato un libro per ADD, Piccolo breviario della legalità. Il giudice c'entra perché è appassionato di basket. Quello che si occupa di basket è appassionato, come spero dovremmo essere tutti, di legalità. In questo momento a tutti e due è venuta questa folle idea. 10 passi per la legalità, non è un po' troppo semplice? Il libro vuole essere semplice, si spera non semplicistico. Certo non è mettendo su un foglio di carta 10 passi che abbiamo risolto i leggerissimi problemi che ci affliggono al momento, però io spero e credo che se non ne parliamo di sicuro non faremo neanche il primo di questi 10 passi. Suonano un po' come i 3 passi per il canestro, qual è secondo te il più importante? La cosa più importante è una frase che mi ha folgorato quando l'ho sentita la prima volta, è quella che c'è all'inizio del libro, ovvero sia una frase di Rita Atria, che è la prima testimone di giustizia della nostra storia, che purtroppo si è suicidata a seguito della strage Borsellino, che ha detto: la prima mafia da combattere è quella che sta dentro di noi. È un libro non solo di concetti ma anche di storie, una l'hai citato tu, oltre a questa quali storie ti hanno colpito? Beh, mi ha colpito immensamente la storia di Giorgio Ambrosoli e del figlio Umberto, ma anche quella di Rosario Livatino. Tra l'altro proprio recentemente è stato l'anniversario della morte. Rosario Livatino era un giudice che non ha avuto il profilo a livello di esposizione mediatica come la chiamiamo oggi, di Giovanni Falcone o di Paolo Borsellino, ma ha fatto cose altrettanto importanti, ha pagato con la vita solamente quella che un altro giudice, Antonio Ingroia, ha definito una grande intransigenza etico-morale, che è semplicemente quella che manca oggi e non deve essere una cosa solo dei giudici, ce lo dice Giorgio Ambrosoli, che è un altro che ha pagato con la vita esattamente lo stesso tipo di intransigenza. Oltretutto Giorgio Ambrosoli era milanese, Umberto Ambrosoli è super milanese, eppure hanno avuto uno la vita mozzata e l'altro la vita condizionata da Cosa Nostra. Questo per quelli che pensino eventualmente che il problema riguarda solo la Sicilia o la mia Calabria o al massimo la Campania e non sale più su. Era la prima edizione di Italia in controluce. Radio24.it è il sito dove potete riascoltare queste e altre trasmissioni. Il gruppo di Facebook Radio 24 Italia in controluce, controluce at radio24.it. La mia voce torna oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24.